Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ha ucciso il figlio disabile e poi ha tentato di togliersi la vita. La tragedia si è consumata da Fragola, in provincia di Napoli. Una donna 59enne, esasperata forse da una situazione familiare difficile, in un momento di follia avrebbe prima colpito con un martello il figlio alla testa, poi, dopo averlo steso su un letto, l'avrebbe pugnalato ripetutamente con un grosso coltello da cucina. L'ama che successivamente ha puntato contro di sé per togliersi la vita. La donna è stata soccorsa intorno alle 14 dalla figlia, che è tornata a casa dal lavoro. L'episodio è accaduto ieri alla Fragola, una madre che da sola gestiva, dalla mattina alla sera praticamente, era il suo unico impegno, il figlio disabile, alla fine l'ha ucciso e ha tentato di uccidersi accanto al figlio che aveva appena ucciso. Il figlio aveva avuto qualche episodio di aggressività verso la madre qualche anno fa, ma ultimamente era un ragazzo abbastanza tranquillo. Un mese fa un'altra persona vicino a Roma ha ucciso un familiare disabile e poi si è costituito. Non è un paese civile, è un paese in cui i familiari delle persone disabili arrivano a questo gesto disperato, totalmente ingiustificabile, ma comunque ascrivibile in un quadro ben preciso. Ci si sente soli, non si sente speranza per il futuro della persona a cui si sta dedicando la vita. Quando noi non ci saremo più, chi si occuperà dei nostri figli? Questo perché? Perché non c'è un'idea generale che alcune disabilità, soprattutto la disabilità di tipo psichico, che è quella che crea maggiore angoscia, perché sono persone che non hanno assolutamente autonomia, nemmeno autonomia di pensiero, non è assolutamente considerata come un problema sociale, o è scarsamente considerata come un problema sociale. E, volendo aggiungere anche qualcosa, siamo un paese in cui non esiste una certezza scientifica stabilita, determinata, che tranquillizzi comunque le famiglie che hanno questo problema rispetto alle possibilità di trattamento di queste patologie. Io parlo soprattutto per l'autismo, che ormai è il termine che riassume tutta un'infinità di disturbi relazione e cognitivi. Beh, è parecchio tempo che ci sono varie proposte di legge che giacciono, si rimpallano, pare che siamo addirittura d'arrivo, ma già ho motivo di pensare che non sarà una legge che servirà a dare certezza. Cosa si fa per queste persone? E le famiglie cosa fanno? Le famiglie che devono gestire un problema del genere arrivano a un punto che, sentendosi totalmente soli, cominciano a organizzarsi autonomamente. Aprono dei forum, si informano, guardano in rete e qualcuno comincia a suggerire delle soluzioni che non appartengono alla medicina ufficiale. Uno viene anche molto spinto a questo, che dice: beh, vedi, la medicina ufficiale non ci dà gli strumenti per occuparsi di nostro figlio, ce ne occupiamo da soli, nessuno ci aiuta, siamo soli, non c'è certezza, andiamo dai medici, dicono 100 cose diverse. Non è così, ci sono in Italia delle linee guida molto precise su come si trattano certe patologie, ma se non diventano legge, se nessuno si occupa di trasmetterle e di diffondere la cultura rispetto a queste metodologie, accadono cose molto, molto singolari e anche molto drammatiche. Parlammo qualche settimana fa degli esempi miracolosi dei ragazzi che si laureavano o dei magistrati che aprivano dei fascicoli sull'effetto dei vaccini sull'autismo, tutte cose che in realtà non hanno nessuna concretezza e servono soltanto a far perdere tempo. E oggi vi espongo un'altra vicenda, una vicenda che in esclusiva questa mattina il quotidiano La Stampa, ad averla seguita è sempre il collega Nicolò Zancan, che abbiamo sentito nemmeno un mese fa proprio sulla questione dei vaccini. Nicolò, buongiorno. Buongiorno a voi. Chiedo intanto agli ascoltatori che ci ascoltano di chiamare all'800240024. Avete anche voi in gestione un figlio con delle disabilità di tipo psichico o a cui hanno già fatto una diagnosi di autismo? Qualcuno vi ha avvicinato per dirvi che esistono delle cure fantastiche, miracolose, che mandandolo all'estero e pagando potrebbe guarire? Perché Nicolò Zancan ha seguito una di queste piste. Racconta. Mi arriva una soffiata giornalistica buona che mi segnala di dare un'occhiata a un sito che si chiama MCell. La cosa che colpisce subito guardando questo sito è che innanzitutto è tutto in italiano ma al fisso ucraino, ma soprattutto colpisce il fatto che c'è un elenco di malattie che ti promettono di curare, di guarire, da il cancro alle disfunzioni erettili, alla menopausa precoce, ai problemi al fegato. Praticamente tutte le malattie del mondo e tendenzialmente le più drammatiche, le più complicate e le meno risolvibili forse. Come si chiama questa clinica? Anche diciamo il nome della clinica è tutto un programma. Il nome della clinica non compare, c'è questo sito che si chiama MCell, Empoli Modena. cell come cellule, perché appunto cellule staminali. Allora, guardando questo sito si capisce che i primi sei trattamenti, diciamo, più richiesti, al primo posto c'è il trattamento dell'autismo. E come referente italiano, in un sito molto molto, diciamo, particolareggiato, in cui ci sono medici dalla Corea, dal Giappone e da altre parti del mondo, c'è questo signor di Bari, che si chiama Nicola Antonucci, e parto da lì, vado a cercare lui, lo chiamo e l'inchiesta parte così. Ecco, cosa sei riuscito a capire? Tu hai anche parlato con un genitore di un ragazzo che è andato a fare questo tipo di trattamento? Sì, innanzitutto mi colpisce che alla prima telefonata a questo medico, ancora non dicendo che era un giornalista, la prima cosa che ci tiene a precisare è: io mi occupo di bambini, solo di bambini, soprattutto di bambini autistici. Cioè, si mette in categoria di un certo tipo. Dopodiché... Non si occupa di disfunzione erettile, di mal di fegato, no, e di altre cose. Esatto, quello, però il posto dove lui ti può portare è una clinica in Ucraina, a Kiev, dove tutto questo viene trattato con le cellule staminali. Insomma, lui, seguo due piste: una, quella che appunto di questo medico, vado a cercarlo, e dall'altra cerco un paziente che si è rivolto a questo medico. In particolare incrocio il papà di un bambino che si chiama Brian, che è un bambino autistico, e il papà mi racconta, sì, di aver fatto due viaggi per 2 euro l'uno, accompagnato da questo dottor Nicola Antonucci, e di essere andata con la moglie in questa clinica, la prima veramente spaventosa, mi ha detto, corridoio sporchissimo, impressionante, dove ti portano lì in 2 giorni, ti pagano, cioè con 12.000 euro ti danno anche il biglietto, e finisci in un posto dove ci sarebbe una cosiddetta banca delle cellule staminali, stendono il tuo ragazzo, il tuo bambino, preparano una flebo che tu non riesci minimamente a controllare, a sapere, non sai nulla, e iniziano a fargli delle iniezioni, lui dice, nella parte dell'addome. E al di là, dice lui, dello shock per l'estetica. Ecco, nel giornale c'è un titolo, c'è un, diciamo, un occhiello che fa paura, dice: ha cominciato a emanare cattivo odore appena fatto il trattamento. Cioè, il bambino puzzava. La cosa inquietante è che lui lo considerava un buon segno. Detto così sembra brutto, ma lui dice: no, c'è tensione, quindi queste staminali qualcosa producono. Cosa producono? Dice lui che Brian ha iniziato a sudare tantissimo, e questo sudore aveva un odore cattivo, però noi abbiamo pensato in qualche modo che stesse succedendo qualcosa, che insomma, quindi il miracolo stava avvenendo. Esatto, il miracolo avveniva seppur sotto forma di un sudore, diciamo, puzzolente. Fermati un attimo, professor Antonio Persico, buongiorno. Buongiorno. Allora, il professor Antonio Persico è un neuropsichiatra infantile, responsabile dell'unità di neuropsichiatria infantile al campus di un medico di Roma. Lo dico perché, lo dico una mia personale deduzione per aver sentito da varie persone dirlo, è considerato dall'estero uno dei massimi rappresentanti della comunità scientifica italiana riguardo all'autismo. Quindi ha tutti i titoli per darci un commento a quello che ha sentito finora. Guardi, il commento è un misto di tristezza, un misto di così, un po' di scoraggiamento, diciamocelo. Perché è triste vedere sia da un lato persone approfittarsi così della disperazione umana, sia dall'altro però anche vedere che gli stessi genitori che ti oppongono mille se e mille ma all'uso di farmaci che derivano da studi fatti su migliaia di casi, pubblicati, accettati da comitati etici, eccetera, poi sono purtroppo disponibili a far fare ai loro figli delle flebo e delle iniezioni delle quali ignorano completamente il contenuto. C'è un fideismo, c'è un irrazionale in tutto questo, che purtroppo temo che a questo punto vada un attimino messo in evidenza. Ecco, questo, perché secondo lei c'è proprio questa percezione sciamanica della cura in Italia rispetto all'autismo? Beh, non è solo rispetto all'autismo, è un po' rispetto a tutte quelle che sono le patologie per le quali purtroppo la medicina non ha una risposta pronta. Non ci dimentichiamo i vari sieri di varia natura, Bonifacio e Compagnia Bella, che si sono alternati nel corso dei decenni nell'ambito dell'oncologia, per esempio, per la cura dei tumori. Cure miracolose se ne sono sempre proposte. dispiace un po' notare che la difficoltà estrema che si ha nell'accettare delle cure che con tutti i loro limiti sono però quantomeno delle cure delle quali noi sappiamo vita, morte, miracoli, se mi passa il termine, a fronte di questo poi c'è questo atteggiamento di accettazione di qualunque cosa venga proposta da questi venditori di elisir di lunga vita. Che ahimè, devo dirlo, è un medico questa persona, poi adesso non voglio entrare nello specifico, poi Zancan ci darà qualche altro elemento, comunque lui dice non è che consiglia questa cura, ma fa da tramite alle persone che vogliono comunque intraprendere questo cammino, che è una questione un po' di lana caprina. Sentiamo Piero, buongiorno, primo ascoltatore, 800 24 00 24. Piero, buongiorno. Buongiorno, volevo dire che certe volte ti offrono queste cose, queste prese in giro, perché giustamente sono delle prese in giro, cosa approfittano di noi, però effettivamente qua non abbiamo niente, cioè se tu vai nelle cose ufficiali, diciamo, ti consigliano solo valla a chiudere l'istituto e non ci pensare più, questo ti consiglio. Ma qual è la sua situazione, Piero? Io ho un figlio con problemi di autismo, ritardo mentale grave, 27 anni, non lo posso tenere nemmeno a casa, devo tenerlo in istituto. Cioè, perché altrimenti siamo abbandonati, non c'è niente, non esiste niente, se no non posso neanche andare a lavorare, non si può fare niente. O lo tiene un istituto e lo abbandona là, cioè l'abbandono e purtroppo deve lasciarlo là, lo vai a prendere per le feste, questo. Perché se no dalle cose ufficiali, diciamo, non c'è niente, questo ti dicono. Io ho fatto diverse volte Pavia, Siena, cose, il consiglio che ti dicono, guarda, lascio l'istituto e non ci pensare più, questo. Capito? Antonio Perzu, professore, è un caso, diciamo, dei tanti che lei conosce benissimo. Questo, ancora una volta, cosa ci suggerirebbe? Che occorre un intervento importante, normativo generale e una diffusione di una cultura diversa, perché non accadono queste cose. Certo, se la risposta viene data, chiudilo in un istituto, uno tenta di tutto per non arrivare a quel punto. Ma guardi, che un genitore possa anche decidere di tentare di tutto, questo lo capisco anch'io, perché anch'io sono genitore. Anche se devo dire sinceramente, io personalmente, qui non parlo da medico, parlo da genitore, se qualcuno mi dicesse faremo a tuo figlio una flebo di cui tu non sai nemmeno che cosa c'è dentro, io non lo permetterei mai. Però detto questo, capisco chi può decidere altrimenti. Per contro, però, guardi che il caso che ci ha appena descritto l'ascoltatore, che sono i casi più severi, i casi più gravi, sono i casi che hanno veramente un danno proprio di una gravità estrema, per cui si deve per forza ricorrere a un trattamento di tipo residenziale. Ma questi casi qui, a parte che sono una minoranza per fortuna, sono dei casi nei quali comunque sia, se il trattamento residenziale è fatto presso centri dove si sa quello che si sta facendo, si tratta comunque sia di situazioni nelle quali non è che il disabile viene parcheggiato. Si tratta di situazioni nelle quali il disabile viene inserito in un contesto che da un punto di vista ambientale cerca di tirare fuori il meglio che c'è in quella persona, che è ancora una persona nonostante tutti i suoi deficit, e cerca di minimizzare le conseguenze negative dei suoi danni. Ci sono dei begli esempi anche in Italia di centri residenziali che fanno questo. Quindi non dobbiamo necessariamente pensare che tutti i centri residenziali siano nient'altro che dei parcheggi. Meno che mai dei lager. Allora, fermiamoci solo un secondo, professore. Diamo un attimo le informazioni del traffico, poi riprendiamo con la storia di Zancan e con il suo commento. 800240024, ripeto, siete mai venuti a conoscenza di persone che vi promettono trattamenti miracolosi al di fuori della medicina ufficiale per risolvere un vostro caso drammatico o abbastanza difficile di gestione di un figlio con dei problemi di tipo psichico? Melog, cronache meridiane. Questa mattina 00024 naturalmente, stiamo trattando una notizia che oggi è in prima pagina della stampa di Torino, un reportage esclusivo di Niccolò Zancan, il titolo è Staminali per bambini autistici, la rotta della disperazione Bari-Kiev. Abbiamo al telefono l'ascoltatore Vincenzo, buongiorno. Sì, pronto? Sì. Sì, sono in diretta. No, senta, sentivo prima il neuropsichiatra, diciamo che più o meno sono un farmacista, quindi capisco le tipologie di terapie prima il neuropsichiatra parlava di terapie accettate e certificate e documentate. Personalmente io non ne conosco nessuna, del resto vedo le prescrizioni del DNP e nella realtà non ci sono, o se sono, sono praticamente per guarire l'autismo? L'autismo non guarisce. No, terapie farmacologiche. Il neuropsichiatra faceva delle differenziazioni tra quelle che... Gliene posso dire qualcuna io che le segue mio figlio per gli attacchi epilettici, se vuole avere qualche nome. No, l'attacco epilettico è già una cosa molto più specifica. Io dico, diciamo, terapie, non dico per guarire l'autismo. Per gestire alcuni momenti particolari. Terapie particolari, sì. Cioè per momenti particolari, al di fuori di quello che può essere... voglio dire l'attacco epilettico, che di per sé è abbastanza comune, ecco, da questo punto di vista. Sì, io nella realtà di questo non per giustificare la terapia di cui io diciamo l'ho fatta personalmente, quindi diciamo dal genitore mi sono recato a Kiev. Ah, lei è un genitore che ha fatto questo? Sì, sono un genitore che ha fatto. Potrei dire subito senza questa premessa. Lei ha fatto... No, ma diciamo, intanto voglio dire, l'ho fatto con autocoscienza, nel senso che al di fuori di quello che poi è stato detto, l'azienda rilascia la certificazione di quello che poi in effetti è stato somministrato al paziente. A parte questo, io poi posso essere d'accordo o non posso essere d'accordo, ma al di fuori di questo, diciamo... Ecco, ma cos'è che l'ha spinta? Lei mica da padre di un ragazzo che aveva, penso, un ragazzo autistico. Diciamo che poteva essere una... è chiaro che ogni caso è a sé stante. Quanti anni ha suo figlio? 8 anni, 9 anni. Posso fare una domanda banale? Come tratta suo figlio, a parte, diciamo, ha una, diciamo, una terapia comportamentale, fa qualcosa? La terapia comportamentale ha degli aspetti, sì, è chiaro che viene fatta, nella realtà non tutte le terapie comportamentali poi riescono, nella realtà deve fare riferimento a qualcosa di serio, c'è l'ABA, ci sono una serie di terapie che poi vengono messe in pratica. Certo, non guarisce, non vede subito il risultato immediato. Si possono vedere qualche piccolo risultato, però voglio dire, l'azione farmacologica o l'azione dei supplementi, quello che sia, talvolta risulta essere in certi casi... E suo figlio cosa è accaduto a suo figlio dopo l'infusione? No, niente di particolarmente, magari c'è stata una maggiore attenzione, questo lo posso dire, lo dico diciamo in una maniera, non è, questa è la seconda. Lei essendo un medico sa che però adesso poi non è che ha un'evidenza scientifica. No, non abbiamo un'evidenza scientifica. L'ha visto forse un po' più attento. Non ne ho visti, se da questo punto di vista ne vogliamo parlare. Allora fermiamoci un secondo, lei ha dato la sua testimonianza. Nicolò Zancan, vediamo di riprendere il filo del tuo racconto su quello che dice l'ascoltatore, vedi? È molto diffusa, sembrava una cosa riservata a pochissime persone, facciamo una trasmissione in diretta, pensata un'ora fa, già c'è qualcuno telefona che ha fatto questa esperienza, quindi secondo me hai solo scoperto la punta dell'iceberg. Sicuramente, ma infatti la BBC, che per certi versi è un po' avanti, è andata lì, ha fatto un documentario dal titolo La clinica dell'ultima speranza, e una troupe tedesca è andata a farne un'altra intitolata in modo molto duro I bambini cavi, nel senso che probabilmente in Europa è molto diffusa questa cosa, e questo padre, il padre di Ryan, ha provato prima tutte le altre soluzioni, diciamo sempre di genere alternativo, cioè ha chiamato Davide Vannoni, quello che ha inventato il metodo Stamina, che adesso sta per essere inviato a giudizio per truffa, non l'ha trovato simpatico a pelle e non c'è andato, si è rivolto al dottor Montinari, anche lui è noto per tutta quella vicenda dei vaccini a Trani. L'omeopatia, i vaccini Trani, sì, sono altro. Sì. E il dottor Montinari sostiene che il vaccino si possa non solo curare, ma si può guarire, e lui sostiene che ci vuole una dieta e una serie di medicinali omeopatici. Lo dice lui, però, diciamo... Tra virgolette, sì, preciso. Dopodiché, dopo aver tentato questa strada, ne ha tentato un'altra, che è una clinica privata, Villa Floria, a Mignano di Montelungo, al confine fra Lazio e Campania, dove sostiene che anche lì facciano delle iniezioni molto, tra virgolette, clandestine. Adesso su questo episodio il NAS sta... Sarà il tuo prossimo reportage, immagino. Magari sì, so che lì il NAS c'è già andato. Ma in ogni caso il tema è che c'è questo circuito, no, di come posso definirlo, di promessa di miracolo. E un padre, questo padre di Ibrahim mi ha detto che ha speso 300.000 euro negli ultimi 9 anni, adesso è oggettivamente in difficoltà economica, e 2 volte è andato a Kiev, probabilmente nello stesso posto dove è andato l'ascoltatore, e la seconda volta ha detto che purtroppo è stato come un bicchiere d'acqua, cioè non ha fatto nulla, nulla, nulla. Allora, velocemente Paolo, una battuta, Paolo è un medico, cosa dice? Ah, pronto, sì, velocemente mi è difficile. Niente, che a me sembra che ci sia una difficoltà anche da parte dei giornalisti di avere delle fonti, diciamo, per cercare di capire dove c'è l'imbroglio e dove no. Ci sono delle banche dati, come per esempio PubMed, dove chiunque scrive qualche cosa su qualche rivista con un minimo di dignità la può trovare. Addirittura PubMed ha un'app sullo smartphone. Faccio un esempio. Io tempo fa sentii la conferenza stampa di un medico che parlava dei progressi che avevano fatto dei pazienti sottoposti a un metodo con cellule staminali, metodo Stamin. Questo disse: io sono esperto e sono autore di più di 150 o una cosa simile, pubblicazioni internazionali. E lei con la sua app ha visto che c'era? Ho guardato, ne aveva 6, salvo omonimie. Ho cambiato canale e non mi sono chiesto perché di tutti quei giornalisti che ci fossero lì, non dico la persona comune, ma chi magari di giornalismo si occupa nell'ambito della, di cose sanitarie, eccetera, nessuno avesse fatto la stessa cosa. Sì, però mi sembra che in questo caso è il caso inverso, è stato scoperto qualcosa di cui non si sapeva e si sta cercando di capire meglio, approfonditamente, di cosa si tratta. Allora, professor Persico, Antonio Persico, ricordo, neuropsichiatra del Campus Medico di Roma, anche lei una conclusione rispetto a quello che ha sentito? Vede, hanno chiamato 2 medici, sembra quasi che ci sia una sorta di diffidenza anche nella stessa categoria a considerare quello che è un'evidenza scientifica, quello che è un proviamo, tentiamo, vediamo che succede. Ma guardi, anche questo credo che sia facilmente comprensibile alla luce del fatto che effettivamente le terapie che noi abbiamo oggi per questa patologia sono delle terapie che hanno un'efficacia limitata. Si parlava prima degli antiepilettici. La terapia farmacologica con antiepilettici è una terapia che ha un'elevata efficacia. Nessun genitore metterebbe in dubbio la prescrizione o meno di un antiepilettico. I genitori mettono in dubbio le prescrizioni di farmaci in questi ragazzi, come anche l'utilizzo delle terapie comportamentali, delle terapie riabilitative, perché noi oggi dobbiamo ammettere, e questo le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità lo dicono con sincerità e chiarezza, che hanno un'efficacia limitata. Da dove poi c'è spazio nell'ambito dell'inefficacia, è chiaro che c'è spazio per vendita di terapie miracolose. Sulla parola terapie miracolose mi sembra molto chiaro il punto di vista del professor Persico. Chi vuole credere che i miracoli possano risolvere il suo problema ha una strada aperta. Chi vuole rimanere coi piedi per terra segua quelle che sono le indicazioni che abbiamo cercato di dare questa mattina. Alla prossima.